Le civiltà dell'antica Grecia. Micenei, antichi greci e macedoni. La Grecia è una penisola che si protende nella parte orientale del Mediterraneo ed è circondata da numerose isole. Il suo territorio è prevalentemente montuoso, le pianure sono scarse e poco estese, quindi c'è poco terreno adatto all'agricoltura. A partire dal 2000 a.C. circa, la popolazione degli Achei, o Micenei, provenienti dal nord della penisola balcanica, si stanziò in queste zone. Verso il 1200 a.C. la civiltà micenea scomparve, probabilmente a causa dell'invasione della popolazione guerriera dei Dori, che provenivano da nord. La fusione tra i nuovi arrivati e i discendenti dei Micenei diede origine agli antichi greci. La civiltà greca raggiunse il massimo splendore nel V e nel IV secolo a.C. Nel 338 a.C. i Macedoni conquistarono tutta la Grecia e buona parte dell'Oriente, formando un grande impero.